Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Ed eccoci ritrovati ancora una volta su Medium, il podcast su Netrunner. La puntata di oggi la dedichiamo alla Corp, ma in particolare la vorrei dedicare a una Corp che finalmente sta vedendo di nuovo la luce dei tornei, o comunque la luce delle vittorie in campo. Parliamo quindi di Jinteki, una corporazione che la prima volta che ho cominciato a giocare a Netrunner è stato subito amore a prima vista. Poi, nell'arco del tempo, conoscendo un po' meglio Netrunner, l'ho abbandonata perché effettivamente non era un'opzione vincente, ma in maniera oggettiva, nel senso che aveva un repertorio di agende un pochettino sfigatello, non aveva motore economico e non aveva nessuna forma di opzione flatline, al contrario della sua rivale Wayland, la quale con Scorched Earth era plausibilmente l'archetipo più efficace per fare flatline, ma in generale più efficace per vincere come corporazione. Allora, il nuovo archetipo che secondo me diventerà interessante da qui a fino a quando non avremo Honor and Profit sarà sicuramente Jinteki Replicating Perfection. Perché? Perché con Jinteki Replicating Perfection abbiamo la possibilità di obbligare il runner a incontrare gli ice che mettiamo nei centrali, e possiamo quindi lasciare i centrali con un solo ice che rezziamo solamente quando siamo sicuri che non potrà essere rotto con qualche trick particolare, o comunque per far innescare qualche trick che ci dà fastidio, tipo, che ne so, un clone chip piuttosto che un self-modifying code. Detto questo, invece, ci possiamo concentrare nei remoti, ma proteggendoli, nel senso che fino ad oggi avevamo l'obbligo di proteggere tutti e tre i centrali, perché altrimenti facevano le run su archivio ed eravamo fregati, perché dovevamo proteggere anche archivio con un ice. Con l'arrivo di Shock questa cosa non è più necessaria, cioè l'archivio si autoprotegge, perché tutte le volte che ci faccio una run mi becco, che ne so, un danno piuttosto che due danni, e quindi i data sucker non me li posso pompare a piacimento. Le run al sicuro verso archivio non le posso più fare se l'obiettivo era quello di arrivare chiaramente nelle parti remote. Quindi qui stiamo lavorando tutto quanto sul tempo. Ora, qual è una delle cose più fastidiose per quanto riguarda il runner che gli fanno sprecare tempo? Sicuramente Ash è una carta Bioroid, se volete ve la leggo, ma penso che la conoscete tutte perché è in gioco da parecchio tempo. Comunque dice: tutte le volte che c'è una run di successo in questo server, genera una Trace 4, che quindi è una Trace molto, molto buona, visto che poi Ash si rezza con 2, e se ha successo il runner non può accedere a nessun'altra carta se non Ash. Chiaramente questo vuol dire che per fare una run su un archivio protetto da un ice e da un Ash, e poi eventualmente un'agenda, piuttosto che, vedremo, la carta combo in più che abbiamo, che è Sundew, devo sprecare praticamente tutto il turno, magari beccarmi dei danni, e la seconda e terza run che faccio sono comunque delle run molto incerte, perché se la prima run che ho fatto mi sono scontrato, che ne so, con un Neural Katana che mi ha tolto che mi ha tolto tre carte. Io poi dopo, se voglio andare nell'archivio, devo pescare, che ne so, una carta, due carte in più, e vado là o all'ultimo click oppure al penultimo click sperando di poter fare due run. Ma tutto questo incontra una serie di ostacoli sotto forma di denaro, click da poter spendere. Quindi io devo dedicare tutto il mio turno per fare le run, e quindi devo essermi preparato anticipatamente calando gli icebreaker, calando tutto quello che può essere l'economia, avendo preso i soldi, diciamo, da Katie Jones, tutte queste cose qua. Chiaramente questo vuol dire che io lascio alla corporazione, io come runner lascio alla corporazione la possibilità di organizzarsi, avendo visto che magari, che ne so, ho calato un Mimic piuttosto che un Ninja, piuttosto che un qualsiasi altro icebreaker che potrebbe rompermi gli ice che ho messo giù, e quindi io li posso cambiare. È un gioco molto attendista. L'obiettivo chiaramente non è più quello di fare flatline all'avversario, ma è quello di scorare semplicemente la gente, cioè le metto giù, le metto in una situazione in cui le posso scorare, quindi anche l'arsenale di agende è molto diverso da quello che siamo abituati a vedere. Chiaramente ci sono i tre clone retirement, poi ci sono delle semplici brain trust, Nisei MK2 e Fetal AI. Fetal AI chiaramente non fa parte delle agende, ma fa parte delle nove carte che ti fanno danno se sei troppo ardito nel fare gli accessi. Quindi nel momento in cui ho tre shock, tre snare e tre Fetal AI, sono tranquillo nel fatto che il runner non calerà mai un medium piuttosto che un R&D interface, e se lo fa a proprio rischio e pericolo. Ora andiamo a guardare invece dal punto di vista degli ice che cosa va a giocare un archetipo di questo genere. Qui si potrebbe chiamare questo archetipo programma di distruzione di programmi, cioè la possibilità da parte di Gintec Replicating Perfection di dire: benissimo, passa pure attraverso i miei server centrali, perché per passare dovrai incontrare ice tipo Archer, che posso rezzare grazie a Clone Retirement, Grim, IC1.0, chiaramente Nero Katana, chiaramente due rototurret o tre rototurret, vediamo a seconda, diciamo, di come vuoi comporre il melange di influenza. E io ci metterei nel mio, per non saperne leggere né scrivere, anche un paio di Swordsman. Questo perché Swordsman è il counter perfetto per chi ti gioca i vari AI breaker come Atman piuttosto che Crypsis. Quindi ecco, un paio di quelli fanno la differenza fra una partita completamente in salita e una partita, diciamo, alla pari. Chiaramente, oltre a Yash, un'altra carta fondamentale potrebbe essere Jackson Howard, che mi permette di pescare molto e quindi di poter selezionare gli shock da poter mettere dentro gli archivi e avere sempre le carte utili, come dire, la mano piena per poter utilizzare Celebrity Gift, che anche quella è un motore importantissimo di soldi. Il motore per eccellenza di soldi in questo mazzo è assolutamente Sandew. Sandew, ve lo ricordo perché è una carta abbastanza nuova, ti dice semplicemente che il primo momento in cui il runner spende il primo click nel suo turno, tu ottieni, quindi tu corporazione, ottieni due soldi, a meno che il runner non abbia appena iniziato una run su questo server. Ora, chiaramente, siccome con Replicated Perfection questa cosa non è possibile, perché tu il primo click lo devi spendere per andare verso i centrali, se poi vuoi andare verso il remoto, va da sé che non potrai mai andare verso Sandew come primo click. Quindi il costo che tu paghi per girare Sandew, che è 2, lo recuperi subito dopo, ottenendo 2 all'inizio del turno dell'avversario. L'avversario chiaramente non si è preparato per fare un'incursione su centrale, magari si stava preparando i fatti suoi, e tu nel momento in cui reggi Sandu gli stai mettendo una pressione notevole a dire: benissimo, adesso ti devi organizzare per venire a entrare nel mio centrale e poi venire a entrare nel mio remoto che ho protetto, con degli spaccaprogramma, quindi con qualcosa che distrugge completamente la tua pianificazione, tipo, che ne so, self-modifying code, piuttosto che i tuoi icebreaker, piuttosto che il tuo gin, insomma il tuo sneak door beta, quello che deve essere. Insomma, se provo di spaccare Sandu, incorro, faccio il gioco della corp, quindi se da runner provo ad andare a rompere Sandu, sono io che sto giocando come vuole la corp e non la corp che sta giocando come voglio io. Se non lo faccio, la corp diventa talmente ricca che può rezzare a mani basse i vari Grim, i vari Ichi senza dover soffrire, e chiaramente qualcosina anche di Enderun ce la dobbiamo mettere, quindi un Imitsubaku piuttosto che un Wall of Thorn ci potrebbe anche andare, chiaramente in misure in giusta misura, QB quanto basta, come si dice nelle ricette. Bene, questo è l'archetipo di cui vi volevo parlare oggi. Insieme all'articolo pubblicherò anche la mia proposta di mazzo, quindi andatevela a guardare, scaricatevela, provatela magari su Octagon se non avete voglia di mettervi lì a modificare il mazzo. Chiaramente se la volete provare dal vivo dovrete aspettare l'arrivo di True Colors. Per quest'oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e infine, come non fare, un grande in bocca al lupo e un grande complimenti al nostro mitico Paddosan, che ha dato da poco annuncio del fatto che sarà il responsabile per il gioco organizzato Italia per quanto riguarda Netrunner, quindi un accordo ufficiale con la Giochi Uniti. Un in bocca al lupo gigantesco a lui e speriamo quindi di incontrarci nei prossimi tornei organizzati in maniera diretta o indiretta dal Paddo, e speriamo di vedere Netrunner fiorire come sta succedendo in tutte le altre parti del mondo, non solo negli Stati Uniti. Un salutone da Federico e alla prossima, ciao! I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.